Montecitorio e dintorni. Buongiorno da Vincenzo Miglietta, doppia intervista per Montecitorio e dintorni di oggi tra politica economica e futuri scenari che coinvolgono i principali partiti del nostro paese. Graditi ospiti il deputato del PD Cesare Damiano e il senatore di Forza Italia Lucio Malan. All'ex ministro del lavoro Damiano chiedo subito qual è la ricetta per tornare a crescere. Per tornare a crescere bisogna battere una politica di sola austerità, quella che l'Europa ha imposto. Nessuno nega l'esigenza di abbassare il debito, ma se non si accompagna la misura dell'austerità con quella della spinta allo sviluppo e dell'eguaglianza sociale, noi corriamo il rischio di cadere dentro il burrone. Forse siamo già dentro un burrone. Quindi bisogna cambiare strada, credo che questo Letta l'abbia detto. Purtroppo le risorse disponibili sono risorse per il momento ancora insufficienti. Le risorse, lei dice, sono poche, e allora dove intervenire, quali sono le priorità secondo lei? Ma per me le priorità sociali sono abbastanza evidenti. Sicuramente incentivare l'occupazione a tempo indeterminato è un bene ed è previsto nella legge di stabilità. Diminuire la pressione delle tasse sul lavoro, anche questo è importante. Io mi sono speso per tenere questa diminuzione di tasse entro uno standard, diciamo, medio-basso delle retribuzioni, fino a 35.000 euro, quindi concentrare la nostra attenzione sui redditi medio-bassi. Poi c'è la grande questione dei giovani, è importante la garanzia giovani con i fondi europei, importante che l'INPS ad esempio garantisca per i giovani del lavoro precario nel caso in cui i datori di lavoro non versino i contributi, che questi contributi vengano coperti dall'istituto, quindi dall'INPS. È importante allargare la possibilità di accesso al bonus precari, vale a dire sono disoccupato, come faccio a percepire una indennità. E poi c'è il grande capitolo delle pensioni, migliorare l'indicizzazione delle pensioni e soprattutto risolvere questo scandalo che è la questione dei cosiddetti esodati, è uno scandalo sociale. Il governo ha promesso, Letta ha promesso, Letta deve mantenere. Si sono trovati 4 miliardi per l'IMU, ma è possibile che non si trovino le risorse per consentire a persone di avere un reddito? Noi stiamo creando nuovi poveri, questa legge Fornero crea nuovi poveri. Si può ipotizzare, può trovare concretezza questo reddito minimo, questo reddito di sussistenza di cui si era parlato, potesse trovare spazio anche nella legge di stabilità? Ma il reddito minimo di cui si parla spero che non vada ai giovani. I giovani dobbiamo dare lavoro, non dobbiamo dare assistenza. L'assistenza va riservata ai poveri, a quelli che veramente lo sono, con controlli ovviamente adeguati. Però se non vogliamo creare poveri, dobbiamo in qualche modo sapere che vanno garantite le tutele. Ad esempio, se io favorisco i licenziamenti, creo nuovi poveri. E allora come fare? La cassa integrazione tiene il lavoratore legato al rapporto di lavoro, i contratti di solidarietà distribuiscono l'orario fra più teste e quindi salvano posti di lavoro. Abbiamo il problema delle indennità di disoccupazione che vanno migliorate. Poi l'ultima istanza deve essere un reddito che garantisce chi effettivamente non ha il lavoro, non ha un reddito, non ha un ammortizzatore, non ha una tutela e quindi una situazione disperata. Sul fronte delle imprese, cosa si può fare perché gli imprenditori possano far entrare più giovani in azienda? Ma intanto per quanto riguarda le imprese c'è questo sconto sul costo del lavoro che è importante per i giovani che vengono assunti a tempo indeterminato, 1.700.000.000 se non sbaglio. Ci sono questi sconti che l'INAIL dovrebbe praticare per le aziende che non hanno infortuni, incidenti. Bisogna dire che anche qui ho presentato un emendamento perché c'è il rischio con la formula attuale che le imprese industriali non abbiano questa possibilità di sconto e questo sarebbe ingiusto. Bisogna consentire che ci sia questo sconto per le imprese virtuose, ma tutte le imprese del commercio, dell'artigianato, dell'industria e degli altri settori. E poi io credo che noi dobbiamo sicuramente favorire il lavoro, perché se il lavoratore ha un beneficio in busta paga, tutto questo va anche a vantaggio dell'impresa. Lo sconto sull'IRPEF ha anche questo significato. Siamo alla vigilia di fatto delle primarie nel Partito Democratico. Quale sarà, cosa sarà il Partito Democratico da lunedì in poi? Ma io spero che sia un partito che mantiene ancora la sua caratteristica di sinistra, la difesa dei più deboli, l'intervento regolatore dello Stato nell'economia, la redistribuzione della ricchezza dall'alto verso il basso, l'uguaglianza e poi una battaglia intransigente per difendere uno Stato sociale sicuramente più moderno, per dire ai giovani che noi vogliamo darvi più tutele e più diritti previdenziali, come abbiamo fatto al tempo del governo Prodi. Un partito di sinistra auspica dunque Damiano per il suo PD con il senatore Malan. Forza Italia, partiamo allora proprio da qui, da cosa cambia da lunedì con il nuovo segretario del Partito Democratico. È chiaro che il pericolo maggiore alla stabilità del governo viene da mesi, viene da Matteo Renzi con i suoi proclami. Ora che dai proclami dovrà passare ai fatti concreti, vedremo cosa farà. Io temo che farà proposte di facciata e si adatterà a continuare a sostenere il governo delle tasse e dell'inazione. Quindi la proposta di Forza Italia per questo governo e per il futuro del Paese qual è? La proposta di Forza Italia è di andare alle elezioni. Abbiamo un governo che si regge su una maggioranza che è illegittima dal punto di vista numerico, per via della Corte Costituzionale, della pronuncia della Corte Costituzionale. Abbiamo un governo che non agisce, abbiamo il probabile futuro segretario del Partito Democratico che attacca il governo giorno per giorno. Abbiamo un Parlamento che nella sua intera composizione è politicamente compromesso da questa sentenza della Corte Costituzionale. Bisogna fare una legge elettorale rapidamente e andare a votare, di modo da avere un Parlamento pienamente legittimato, e noi contiamo che i cittadini si esprimeranno a favore di chi difende i loro interessi e non vuole che siano massacrati dalle tasse, da una burocrazia opprimente e da una inazione sui problemi del Paese. Quanto alla legge di stabilità, il vostro giudizio qual è? E seconda domanda, è comunque una legge di stabilità che toglie l'IMU contro la quale vi siete molto battuti, quindi forse è un giudizio a metà quello che potreste avere su questa manovra economica? Guardi, l'imposizione sulla casa era meno di 11 miliardi complessivamente all'epoca del governo Berlusconi, appena 2 anni fa. Col governo Monti è passata a 24, con questa legge di stabilità passa a 30 immediatamente e poi può arrivare fino a 40. Non possiamo che essere contrari a un aumento di questo genere sulla casa. Poi qualcuno potrà avere qualche guadagno, ma è evidente che nel complesso gli italiani pagheranno molto di più. Altra grana per il governo, la cosiddetta mini IMU, si riuscirà ad eliminarla o si dovrà pagare entro metà gennaio? Noi abbiamo presentato delle proposte per toglierla del tutto, figuriamoci se non siamo favorevoli anche a togliere il risultato dei pasticci fatti dal governo, però non abbiamo la maggioranza, qui alla Camera, grazie al premio di maggioranza illegittimo, il Partito Democratico, una maggioranza schiacciante, temiamo di non riuscire a far nulla, ma noi appoggeremo cose che vadano in questo senso. Ringrazio allora il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, abbiamo ascoltato anche Cesare Damiano del Partito Democratico, Montecitorio e dintorni termina qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.